Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane e andremo avanti fino alle ore 21:30, ci state ascoltando su 90 MHz e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla iniziale di questa trasmissione radiofonica che è in diretta ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e andremo avanti fino alle ore 21:30, dalle ore 20. Ricordo che questa trasmissione viene curata e condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. I nostri contatti, se volete scriverci una mail, quindi la posta elettronica è liberetutti@autistiche.org, oppure se volete scriverci in forma cartacea potete farlo attraverso la casella postale che è il numero 129, intestando ad Associazione Senza Sbarre, Trieste Centro 34121. Inoltre Tutte le trasmissioni che noi conduciamo qui in diretta ogni giovedì le potete riascoltare nel blog che si chiama zardismagneticsradio.noblogs.org. E inoltre ci trovate pure su Telegram scrivendo t.me/zardins, ripeto t.me/zardins, questo su Telegram. Bene, ora andiamo così all'ascolto di un brano, forse due, di questa band italiana, si chiamano Dune, e questo è il loro album che si chiama L'ipotesi della stipsi. Superbo. avvicinare i quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione e cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia. Sì, sì, sì, superbo. E quel che più conta, spontaneo. Anzi, volontario. Opera volontaria. Repressione antifascismo. Da un po' a capirle le donne. Avete deciso di restare a Parigi, restaci, no? Scusate, dottore, non ho capito niente, latino. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Abbiamo trasmesso il segnale orario delle ore 13. Saluto a tutte e a tutti quelli che ci ascoltano per un contributo questa sera a Verdis Magnetics del 23 giugno 2022. In precedenza, in puntate andate in onda lo scorso inverno, e avevamo già tentato di tracciare una linea di contatto tra vari aspetti e problematiche su questioni che orbitano attorno al concetto di militanza. Diremo in breve, per riprendere velocemente le nostre considerazioni, che si era visto come il militante abbia una sua soggettività dallo statuto poco definibile dal nostro punto di vista. Un punto di vista che prendeva spunto da autori della dissidenza leninista come Danilo Montaldi e dall'esperienza sessantottina del gruppo italiano Ultra Consigli Proletari. Da questi esempi emergevano alcune caratteristiche. Il militante, cioè, risultava strettamente connesso nella sua soggettività a quella di un gruppo, e questo gruppo era un campo di esperienza, l'esperienza proletaria delle lotte. Nulla aveva a che fare il militante con la spontaneità, ma in questo senso, cioè, metodologico. Per illustrare meglio questo discorso, prenderemo questa sera un autore come Maurice Auverbach, sociologo francese, morto a Buchenwald per mano dei nazisti. Dalle sue riflessioni emerge chiaramente il ruolo chiave giocato dai luoghi in cui un gruppo si trova ad abitare e ad agire nella formazione della memoria, quindi dell'identità di quel gruppo. Un gruppo di proletari e proletarie, ad esempio, avrà messo in luce il nesso di condivisione di strade, vie, piazze, quartieri, borghi, perché sarà lì che si troveranno le tracce dell'esperienza concreta di quel gruppo. Al di là della presunta storicità del costituirsi di quel gruppo, è rinvenibile al contrario nella partecipazione del gruppo stesso al dinamismo dell'intera società, presa in astratto, quello che si fa di solito nelle ricostruzioni storiche. Questa via indicata da Auverbach è la via per far emergere l'antagonismo e la conflittualità di quel gruppo e quindi il suo effettivo reale contributo alla lotta. Thank you. gli oggetti perché si desidera che non cambino e continuino a tenerci compagnia, scartiamo tutte le considerazioni legate alla comodità o all'estetica. Rimane che il nostro ambiente materiale porta impresso insieme il nostro marchio e quello degli altri. La nostra casa, i nostri mobili e il modo in cui sono disposti, tutto il modo in cui sono arredate le stanze, spesso entro questa cornice. Se viviamo da soli, la regione dello spazio che ci circonda in modo permanente e le sue parti non riflettono solo ciò che ci distingue da tutti gli altri. La cultura e i gusti che si manifestano nella scelta e nella disposizione che abbiamo dato a questi oggetti si spiegano in gran parte con i legami che ci uniscono sempre un gran numero di società, visibili o invisibili. Non si può dire che le cose facciano parte della società, tuttavia mobili, arredi, quadri, attrezzi e soprammobili circolano all'interno del gruppo, vi sono oggetto di apprezzamenti e di confronto, fanno a ogni istante intravedere le nuove prospettive della moda e del gusto e ci ricordano anche i costumi e le distinzioni sociali di una volta. Nel negozio di un antiquario tutte le epoche e tutte le classi si fronteggiano così, nelle membra sparse e fuori uso dei mobili dispersi. E sicuramente ci si chiede, di chi sarà stata questa poltrona, oppure questa tappezzeria, questo necessaire, questa coppa? Nello stesso tempo, ma in fondo è la stessa cosa, si pensa al mondo, che si riconosceva in tutto questo, come se lo stile di un mobilio o il gusto di un arredamento fossero per lui l'equivalente di un linguaggio che comprendeva. Quando Balzac descrive una pensione familiare o la casa di un avaro e Dickens lo studio di un notaio, questi quadri ci permettono già di presentire a che specie o a che categoria sociale appartengono gli uomini che ci vivono dentro. Non si tratta di una semplice armonia e di una corrispondenza fisica tra l'aspetto dei luoghi e quello delle persone. Piuttosto, ogni oggetto incontrato e il posto che occupa nell'insieme ci ricorda una maniera di essere comune a molti uomini e quando si analizza questo insieme e si attira la nostra attenzione su ciascuna delle sue parti è come se si dissezionasse un pensiero in cui si mescolano i contributi di una gran quantità di gruppi. Il luogo occupato da un gruppo non è come una lavagna su cui si scrivono delle cifre e delle figure e poi si cancellano. Come potrebbe l'immagine della lavagna ricordare ciò che vi si è tracciato sopra dal momento che è indifferente alle cifre e sulla medesima lavagna si possono riprodurre tutte le figure che si vogliono? No, il luogo invece accoglie l'impronta del gruppo e ciò è reciproco. Allora, tutte le pratiche del gruppo possono tradursi in termini spaziali e il luogo che occupa non è che la riunione di tutti i termini. Ogni aspetto, ogni dettaglio di questo luogo ha in sé un senso che non è intellegibile che per i membri del gruppo, poiché tutte le parti dello spazio che ho occupato corrispondono ad altrettanti differenti aspetti della struttura e della vita della loro società, almeno per ciò che essa ha avuto di più stabile. Certo, anche gli avvenimenti eccezionali si ricollocano in questa cornice spaziale, ma perché in occasione del loro manifestarsi il gruppo ha preso coscienza con maggiore intensità di ciò che era da molto tempo e fino a quel momento e i legami che lo congiungevano al luogo sono apparsi con maggiore nettezza nel momento in cui stavano per spezzarsi. Un avvenimento veramente grave, tuttavia, comporta sempre una modificazione dei rapporti che il gruppo intrattiene con il luogo, sia che modifichi il gruppo nella sua estensione, come nel caso di una morte o di un matrimonio, sia che modifichi il luogo stesso nel caso che la famiglia si arricchisca o diventi povera o che il capofamiglia sia chiamato in un altro posto o cambi lavoro. A partire da questo momento non si tratterà più esattamente dello stesso gruppo né della stessa memoria collettiva, ma nello stesso tempo nemmeno l'ambiente materiale sarà più lo stesso. diversi quartieri all'interno di una società e le case all'interno di un quartiere hanno una posizione fissa e sono tanto attaccati al suolo quanto gli alberi e le rocce, una collina o un altopiano. Ne risulta che il gruppo urbano non ha l'impressione di cambiare fin tanto che l'aspetto delle strade e dei muri rimane identico e che ci sono poche formazioni sociali insieme più stabili e più sicure di durare. L'occasione per continuare e proseguire con questo discorso è offerto da un opuscoletto uscito nel 2016 dalla distro Guerra e Palazzi di Udine, si intitolava Sans da Villa, e si proponeva di mettere a confronto e dialettizzare alcune prospettive sulla memoria di una specifica banda di ribelli, il cosiddetto distaccamento Garibaldi. Negli anni seguenti inserite nel più ampio fenomeno della resistenza di queste zone. Ma l'intento era proprio provare a vedere come inedito e inaudito il costituirsi di un nucleo di attacco agli apparati dello Stato italiano, incluso tra gli apparati anche il Regio Esercito, nel rapido ma significativo volgere di una primavera, quella che trascorse tra il maggio e luglio 1943, quindi ben prima dell'inizio ufficiale della resistenza, che è, come noto, l'8 settembre 1943. Nella nostra zona vi era l'esempio della vicina resistenza e guerriglia presente in Slovenia fin dall'indomani dell'invasione italiana nel 1941. Ma non solo, la guerriglia interessava tutti quei territori a ovest del confine italo-jugoslavo di Rapallo, sia perché etnicamente affini all'altro lato del confine, sia anche perché si trattava, allora, per Trieste e Monfalcone, delle realtà urbane e industriali che necessitavano dell'esistenza di gruppi di proletari e proletarie sloveni intrecciati con quelli di lingua italiana. Alla fine del 1942 i militanti comunisti sloveni ritengono di fatto il litorale sloveno come parte della nuova realtà rivoluzionaria jugoslava, anche se amministrativamente si tratta di realtà eterogenee. Da una parte la provincia di Lubiana, che era occupata militarmente dal Regio Esercito, e dall'altra parte invece territori assegnati al Regno d'Italia dagli accordi di pace della fine della Prima Guerra Mondiale. Ma i militanti avviano gli stessi organismi confederali già funzionanti nelle zone libere dell'interno e dunque considerano il litorale come uno stato in disfacimento, in disgregazione. Pertanto anche Trieste e Monfalcone si costituiscono i fronti nazionali di liberazione, sia nei quartieri e sia nelle realtà aziendali. Si arriva così con il fatto compiuto a imporre ai militanti togliattiani degli accordi di collaborazione, in particolare anche strutture guerrigliere miste di italiani e sloveni, con il compito di fare proselitismo delle popolazioni. E ben inteso che da parte di Jugoslavia non si esclude nel computo delle nazionalità anche quelle friulane e carniche. Nel marzo 43 vengono selezionati dei compagni tra i disertori del Regio Esercito, e tra alcuni compagni con condanne definitive già in clandestinità. Li si invia a una brigata slovena già in marcia nelle prime di giugno. Questi compagni rimangono in clandestinità nei boschi del Cividalese per circa 2 settimane, e privi di forniture praticamente. Il gruppo si scioglie all'inizio di giugno 1943 per essere immediatamente braccato dalla repressione, e gli elementi vengono successivamente catturati. Per chi fosse interessato, la vicenda è narrata nel volume di Gian Peteano e Anna di Gian Antonio, è narrata in forma corale, diciamo. Il volume si intitola Ondina Peteani, e con le prefazioni di Liliana Segre e Don Andrea Gallo, abbiamo già detto tutto, ed è stato pubblicato nel 2011. Invece l'opuscoletto, come ho già detto, è disponibile chiedendolo a noi, qui di Zertis Magnetics, ripeto, è stato curato dalla distro Guerra ai Palazzi di Udine. On my heart, E intanto stiamo ascoltando in sottofondo questa band olandese, esattamente di Rotterdam, band che era esistita alla fine degli anni 80. Questo è il loro album datato 1991 e sono gli Anarchrust. Mentre volevo dire che prima, durante l'intervento, a parte un paio di brani diciamo popolari, c'erano una band recente, anzi che ha fatto uscire un CD proprio recentemente, di Trento, e sono i Mortaio. I turchi d'Italia. Candia, l'odierna Creta, è insorta contro il dominatore turco, la Macedonia sta per insorgere e tutta la penisola balcanica tra poco sarà in fuoco. Che cosa dobbiamo, che cosa possiamo far noi di fronte a questi avvenimenti? Alcuni socialisti ed alcuni anarchici si sono avviati per andare a Candia e da ogni parte ci giunge notizia di compagni che vorrebbero partire e sono solo trattenuti dalla mancanza di mezzi. Noi abbiamo la più profonda simpatia per questi generosi e ci rallegriamo specialmente che i socialisti che sogliono trattar noi da sentimentalisti e da romantici non sono poi alla prova dei fatti quelle formule algebriche che vorrebbero parere e hanno visceri d'uomo e comprendono che l'uomo vive e si agita e soffre e si entusiasma per cose che mal si spiegano con le teorie di Marx. Ma ai compagni nostri dobbiamo pur dire quel che ci detta la nostra ragione. I greci non vogliono essere dominati dai turchi ed hanno mille volte ragione. Essi vogliono passare sotto il dominio del re di Grecia e possa non succedere a loro quel che è successo a certi italiani. Ma noi, se potessimo portare aiuto efficace a quegli insorti, dovremmo farlo in nome delle idee nostre, che abbracciano e comprendono tutte le questioni minori. Noi dovremmo lottare perché quei popoli avessero la libertà vera di scegliersi i loro destini. ma non potremmo essere i soldati del re, non potremmo accettare anticipatamente la responsabilità di tutte le vessazioni di cui i cretesi e gli altri saranno vittime da parte della borghesia greca e che spesso, ne siamo sicuri, faranno rimpiangere il turco. Ora di Candia non c'è da parlare, l'isola sta nelle mani delle truppe regie di Grecia e delle forze dell'Europa coalizzata. Il suo destino sta nelle mani della diplomazia, la costanza degli insorti può dare occasione al re di Grecia di tenere duro ed ottenere l'annessione. Ma l'intervento, seppur sarà permesso, di pochi volontari stranieri non può essere di peso alcuno. L'eroismo dei nostri compagni sarebbe certamente inutile e potrebbe anche essere un eroismo a buon mercato, riducendosi ad un semplice viaggio di diporto. Dove si dovrebbero oggi dirigere i volontari sarebbe in Macedonia e nell'Epiro, ma bisognerebbe potervi andare in numero e forza tali da poter avere una politica propria, altrimenti in pochi, mescolati alle bande greche, senza sapere la lingua, noi dovremmo non solo fare gli affari del re di Grecia, ma anche assistere, impotenti, agli immancabili massacri dei contadini turchi, poiché, non bisogna dimenticarlo, là, oltre l'odio contro l'oppressore, che sentiamo noi pure, vi è l'odio di razza e di religione, col quale noi non abbiamo nulla da fare. Ci dicano i nostri amici, se si trattasse di andare a liberare Trieste, andrebbero essi, quando non avessero altro modo di farlo, che arruolandosi sotto il re o sotto Imbriani, ex garibaldino e deputato, acceso fautore delle terre irredente, termine da lui stesso coniato nel 1877? Posto quel che abbiamo detto, ci pare che nelle condizioni reali, nostre e di laggiù, non possiamo far altro. Consoliamocene. Abbiamo tanto da fare, se vogliamo, contro i turchi d'Italia. Enrico Malatesta, Pro Candia, L'agitazione, numero 1, 14 marzo 1897. Oh, my God. Sì, un saluto anche da parte mia, siamo sempre su Zernis Magnetics e appunto ci ospita Radio Onde Furlane. E allora, abbiamo pensato anche stasera di così proseguire un po' con i contributi su guerra, anarchia, anarchiche, anarchici e internazionalismo. E abbiamo iniziato insomma questa seconda parte appunto con la lettura di Enrico Malatesta. Proseguiamo leggendo alcune parti di un documento che si chiama Nel vortice della guerra, che è stato curato da Rompere le righe. Allora, il mondo in guerra. Guerra mondiale non si nasce, si diventa. Questa è la lezione che dovremmo avere imparato dai massacri dello scorso secolo. Nella regione ucraina vengono a galla gli scontri e le contraddizioni fra gli interessi dei padroni e degli stati europei con quelli dei ricchi statunitensi, delle classi dominanti russe e dei privilegiati ucraini. In ballo c'è una nuova spartizione del mondo. Il militarismo russo punta a riprendere sotto la propria sfera di influenza il controllo del sud-est dell'Ucraina e della costa del Mar Nero fino alla Moldavia. Quello europeo e statunitense spinge esattamente nella direzione opposta. Restare ancorati alle ricche regioni dell'est Europa, terre da sempre saccheggiate per le loro ricchezze del sottosuolo ed agricole, per essere snodi logistici e crocevie fondamentali per il funzionamento dei capitalismi mondiali, dalle arterie di comunicazione ai gasdotti, e per l'immensa disponibilità di manodopera a basso costo da poter sfruttare. Colonie da sempre contese. Dall'altro lato del fronte proseguono gli attacchi dell'esercito russo nell'est del paese e a sud in direzione di una conquista della città portuale di Odessa, vera e propria cerniera strategica e porta per poter arrivare in Transnistria e in Moldavia. Dal, tra virgolette, nostro lato prosegue e aumenta l'invio di armamenti sofisticati all'esercito dello Stato ucraino, mentre anche stati e padronati storicamente neutrali, come quelli svedese e finlandese, scendono in guerra a fianco della NATO. Questo conflitto per gli analisti dei privilegiati ha drammaticamente due sole possibili estensioni: quella di divenire mondiale e quella dell'olocausto di una guerra nucleare. Alla riunione di guerra degli stati occidentali a Ramstein, in Germania, svoltasi lo scorso aprile 2022, erano presenti anche i rappresentanti delle borghesie giapponese, australiana, sudcoreana, israeliana, del Qatar e del Kenya. Sono i rappresentanti di un blocco che sta combattendo questa guerra per procura già da anni, nelle terre africane ed asiatiche, dai deserti del Sahel a Taiwan, dall'Afghanistan al Sudafrica. Il rinato espansionismo britannico ha stretto accordi con la borghesia indiana in materia di riarmo ed economia in chiave antirussa e anticinese. In visita nel subcontinente anche il presidente della Commissione europea ha annunciato la creazione di un consiglio permanente UE-India per il trasferimento di tecnologie ad uso duale, che significa ad uso civile e militare. Mentre nasce un asse tra Pechino e Mosca per la guerra nucleare, anche i nostri padroni sviluppano nuovi ordigni atomici ed accelerano sullo sdoganamento del loro utilizzo. Riarmo tedesco ufficialmente dichiarato dopo 80 anni, 100 miliardi di euro di investimenti, spesa militare aumentata al 2% del PIL. Nel quadro di una difesa comune europea, definita PESCO, con la sigla PESCO, riarmo dell'imperialismo straccione italiano e nuovi decreti per inviare armi e mezzi sul fronte orientale, massacri e povertà crescente per la nostra classe sociale, guerra ed economia di guerra, alle nostre latitudini impennata crescente dei prezzi sui generi di primo consumo, dal cibo all'energia, carovita per le sfruttate e gli sfruttati, speculazione ed arricchimento per i capitalisti. Il margine di guadagno per le società di gas ed elettricità da quando il conflitto si è avviato è cresciuto del 560%. Il proletariato, da un lato e dall'altro del fronte, paga la guerra dei suoi padroni col sangue e la miseria. Il nemico è in casa nostra, bloccare tutto per trasformare la guerra fra padroni e stati in una guerra contro i padroni e gli stati. È ormai una drammatica necessità per ogni sfruttata e ogni sfruttato, e per l'esistenza stessa del pianeta. E continuiamo con la lettura di questo opuscolo nel vortice della guerra. Appunto, si parla di guerra per le risorse. In Ucraina, soprattutto nel Donbass, ci sono importanti riserve di litio, metalli rari come il germanio, utilizzato nell'industria dei semiconduttori, di titanio, tantalio, niobio, berillio, mercurio, ferro, oro, zirconio. Dall'Ucraina proviene il 60% del gas neon utilizzato dall'industria mondiale dei semiconduttori e il 90% utilizzato da quella americana, fondamentale per i microchip. I due terzi di questo dalla sola azienda Ice Blick, fornitrice privilegiata della Silicon Valley di Odessa. Il resto dalla Cryon di Odessa e dalla Ingas di Mariupol. Essendo uno dei territori più ricchi al mondo di risorse minerarie, qualche risposta sullo scontro in atto è implicita. E ancora, potenziamento virale. L'Ucraina ospita diversi laboratori che sperimentano il cosiddetto aumento di funzione dei virus. Alcuni di questi sono stati costruiti e sono in mano agli Stati Uniti, sotto il controllo del Dipartimento della Difesa e di DARPA. Al di là delle propagande avverse in questa guerra rispetto al fine di costruire armi biologiche, è molto difficile avere notizie certe a riguardo, poiché non sarebbero comunque di dominio pubblico. Ciò che invece è evidente è il ruolo della ricerca scientifica in questa come in altre guerre e la sua natura duale. In ogni caso, un agente patogeno in un laboratorio può divenire in qualunque momento un'arma biologica, qualunque sia lo scopo delle sperimentazioni. L'ultimo rapporto del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti riporta che dai suoi laboratori, nel solo 2019, diverse tossine e altri materiali pericolosi sono stati rilasciati per sbaglio ben 219 volte. Vortice della guerra, transizione. Oggi chi controlla i minerali controlla l'industria. Le guerre di oggi e di domani si combattono soprattutto per mantenere il controllo dei territori e delle risorse, poiché dai minerali dipende non solo tutto il processo di digitalizzazione della vita, ma anche l'industria militare di uno Stato, dai missili intelligenti ai reattori nucleari ai satelliti. In un presente in cui la società stessa si è trasformata in una enorme macchina da guerra, il progresso tecnologico non è affatto un processo immateriale. Macchinari e dispositivi, cavi, sensori, batterie, ciò che è il nucleo stesso della transizione energetica e digitale, sono fabbricati a partire da materiali molto complessi da estrarre, le cosiddette terre rare o metalli rari. L'estrattivismo comincia direttamente nelle viscere della terra attraverso processi industriali che necessitano di molti metalli pesanti e prodotti chimici, tutti molto tossici, andando ad attaccare i substrati microbiologici della vita sulla terra. Questo, oltre a colpire irrimediabilmente la salute delle popolazioni che vivono nei luoghi di estrazione, aumentando la possibilità di nuove epidemie, determina costi di lavorazione elevatissimi, di conseguenza i costi della manodopera devono essere estremamente bassi, perciò questi materiali sono estratti soprattutto da zone nelle quali chi vi abita deve letteralmente apparire come inferiore. Le nuove tecnologie vanno di pari passo con il giogo neocoloniale e soprattutto a mantenere stabile questo tipo di profitto serviranno le propagande della transizione, quando una popolazione tenterà di rivoltarsi perché brutalmente sfruttata nella costruzione del nuovo mondo. Le canzoni che stiamo ascoltando sono degli Hiatus dall'album From Resignation to Revolt. We'll be right back. E continuiamo appunto con questo contributo nel vortice della guerra, curato da Rompere le Righe. Parlando, arriviamo al famigerato PNRR, riarmo in salsa green. Allora, vediamo quali sono gli investimenti del PNRR nel comparto difesa. Finiscono sotto le voci transizione ecologica e promozione della ricerca scientifica e tecnologica, e non solo. Assistiamo a una sempre maggiore convergenza tra civile e militare. E sono previste delle smart military districts, cioè delle basi militari in cui è massimizzata l'efficienza energetica attraverso l'adozione integrata di intelligenza artificiale, automazione e analisi dei dati, protette da infrastrutture cibernetiche in grado di essere poli di attrazione per interessi e investimenti. Le proposte di Leonardo S.P.A. al Parlamento, realizzazione di un cloud nazionale, già siglati accordi con Ericsson e Microsoft, sistemi per il monitoraggio delle infrastrutture energetiche e della logistica, proposta di rilevazione di logistica digitale SRL, controllo urbano, tecnologie di cybersicurezza per le forze dell'ordine, tracciabilità, videosorveglianza, riconoscimento facciale, software predittivi dei crimini. In aerospazio, previsti 1,29 miliardi di euro di finanziamenti per 5 capitoli SATCOM, satelliti e tecnologie per comunicazioni sicure e banda larga, osservazione della Terra, realizzazione di una costellazione satellitare ad alta frequenza e lancio del progetto Cyber Italy, Space Factory, linee integrate per produzione e collaudo di piccoli satelliti in Italia, accesso allo spazio, tecnologie innovative per la prossima generazione di sistemi di trasporto, in orbit economy, capacità di fornire la manutenzione in orbita di satelliti e infrastrutture, dispositivi e infrastrutture utilizzabili anche e soprattutto per scopi militari. E arriviamo, per concludere questa lettura di questo documento, la difesa comune europea. Allora, la difesa comune europea è stata istituita con il nome di PESCO nel 2017 e regola la collaborazione fra gli Stati membri in termini di difesa e si propone di garantire l'interoperabilità fra i sistemi di difesa dei vari paesi e di questi con quelli NATO. La PESCO funziona sulla base di progetti cui partecipa un numero variabile di paesi membri che coprono tutte le aree della difesa, addestramento, sistemi di comunicazione, sistemi d'attacco via terra, mare e aria, elaborazione di nuovi armamenti, implementazione di sistemi satellitari. La differenza coi passati progetti di difesa comune è data dai vincoli legali che impone ai membri. Fra questi, l'aumento degli investimenti nel comparto militare e l'impegno a fornire unità di combattimento, soldati, mezzi e logistica, per missioni militari pianificate a livello europeo. La guerra, dunque, è pace. Tra le possibilità di intervento e missioni, PESCO non viene mai nominata, tra le possibilità di intervento e missioni PESCO non viene mai nominata la parola guerra. Al suo posto troviamo operazioni congiunte di disarmo, prevenzione dei conflitti, peacekeeping, gestione della crisi, peacemaking, stabilizzazione post-bellica. Oggi che sempre più il muro della divisione sociale è quello della conoscenza tecnoscientifica, ci sembra imprescindibile che la contestazione alla guerra si sproni per attaccare quella conoscenza. La ricerca è ciò che sta alla base del militarismo e della potenza tecnica degli stati e dei blocchi di potere. Uno Stato senza esercito, polizia e bombe non potrà mai definirsi tale, poiché senza quei rapporti di forza sarebbe la popolazione stessa che abita i suoi territori a definire la qualità della vita. Invece, lo Stato la vita la deve controllare, reprimere e tenere in pugno. Oggi, nei missili che cadono sull'Ucraina, ieri in Afghanistan, Iraq, Palestina, Libia. Ogni militarismo, da qualunque parte provenga, porta con sé nuovi confini e con essi morte, distruzione e sfruttamento. Ogni cuore che vi si contrappone, al contrario, può essere parte dell'unica coscienza capace di mettere freno alle guerre dei padroni, quella di un internazionalismo senza patrie. Per questo schierarsi contro la guerra significa anzitutto capire da dove parte. Better life, never mind, let the end. Let's go, we need a better life. concludiamo questa, così, queste letture di approfondimenti su guerra, anarchia e internazionalismo, e andando a leggervi il documento, un articolo di un compagno siciliano. Alla brutalità della guerra, è stato scritto l'8 marzo 2022, quindi a pochi giorni, insomma, dopo l'inizio della guerra. Alla brutalità della guerra, e mi rivolgo a chi è ancora in grado di sentirla, occorre rispondere attingendo al meglio delle sensibilità, dell'empatia e della solidarietà umana. Ma come dirlo, come agirlo? L'abisso etico che ci separa dai signori degli eserciti, se non con la radicalità di un'insurrezione antimilitarista? Mi fanno pena e rabbia tutte le ciniche, algide analisi geopolitiche da cui, stringi stringi, si deduce che il nemico del mio nemico è mio amico. Logica che accomuna tanto i democratici filo-atlantisti, che puntano il dito contro l'autocrazia russa, pronti a far valere nella vicenda ucraina i principi che evidentemente non valevano per il Kosovo, quanto i difensori di Putin, quale baluardo contro l'imperialismo della NATO, i quali non arrossiscono di vergogna l'idea di solidarizzare con chi ha appena stroncato nel sangue la rivolta del popolo kazako, né di stare con Lukashenko invece di sostenere le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori in Bielorussia. Mi fa rabbia e pena qualsiasi visione del mondo che arrivi a considerare i civili bombardati come pedine di un risico inesorabile. Ma non sarà con un pacifismo ridotto a sola dimensione dello spirito, tanto fiero del suo orizzonte utopico quanto autoassolvente si rispetto alla sua inefficacia materiale, che quella logica potrà essere combattuta e sconfitta. Partiamo dai luoghi che abitiamo, diciamo forte e chiaro, rendendolo visibile, che i militari nelle strade non rendono più sicure le nostre città, ma ne sfigurano irrimediabilmente il volto. E riflettiamo criticamente su ciò che è stato per non rassegnarci impotenti a ciò che sarà. A me viene in mente questa considerazione. Per 2 anni di seguito, nel momento più intenso della mobilitazione contro il MUOS, siamo riusciti a invadere una base NATO. Lo rifarei 100 volte, ma non mi perdono di non essere riuscito a dare il mio contributo, anche in termini di rischio personale, affinché di quelle manifestazioni non restasse solo una pur degnissima testimonianza. Quelle antenne andavano sabotate, smontate, distrutte. Non esserci riusciti, non averci nemmeno provato fino in fondo, con ogni mezzo necessario, è uno dei limiti che ci si ritorcono contro oggi che qualche idiota arriva a ringraziare Putin per essersi frapposto al dominio statunitense. Non serve che qualcuno mi ricordi l'ipocrisia con cui in Occidente si ricoprono i propri sporchi affari con la bandiera retorica dei diritti umani. So bene cosa significhi essere alleati dell'Arabia Saudita o dei militari egiziani, così come so bene quanta logica coloniale ci sia nell'imporre a mezzo mondo il proprio discutibilissimo modello politico, mandando commissari dell'Unione Europea a vigilare sulla correttezza delle elezioni in Palestina e in Egitto, per poi revocarne il risultato non appena il consenso popolare va ai fratelli musulmani o ad Hamas. Serve piuttosto ricordarci che opporsi alla guerra in Serbia non voleva dire stare dalla parte di Milosevic, così come opporsi alla guerra in Iraq non voleva dire scordarsi l'uso dei gas contro i comunisti curdi da parte del regime di Saddam Hussein. Il rifiuto di questa mortifera logica binaria si nutre e si alimenta di gesti altamente esemplari e di conflitti generativi di possibilità inedite. A Napoli, poco più di 70 anni fa, una rivolta degli abitanti cacciò l'esercito nazista senza aspettare l'arrivo dei carri armati americani. Oggi, in galera con l'accusa di strage formulata da chi di stragi se ne intende per averne ordite di tremende, ci sono compagni accusati di aver piazzato ordigni artigianali per dare fuoco a mezzi militari. Chiunque voglia battersi davvero contro la guerra cerchi di non far mancare il suo supporto a chi si è servito del proprio cuore come di una Molotov e provi da sola, da solo o in compagnia a fare lo stesso, nei modi e con le pratiche che la propria coscienza gli suggerisce. e allora prima di salutarvi definitivamente per stasera, vi do nuovamente i contatti, appunto, per contattare l'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste e anche la trasmissione Zerbis Magnetics, c'è una mail liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in modo tradizionale ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121. E per riascoltare questa e anche le altre trasmissioni radio potete andare sul blog zardingsmagneticsradio.noblogs.org e c'è poi anche un canale Telegram, allora tdtreno.me / Zardings Zardings. E per stasera la finisco qua e alla prossima. In sottofondo stiamo ascoltando i Concord Sox. Prima abbiamo ascoltato il brano Prophecy e poi No Trust No Faith. E niente, adesso ci ascoltiamo un altro brano dall'album Whoops Sorry Vicar. Ciao a tutti e a tutte e alla prossima.